Avrei dovuto fermarti, ma coi miei dubbi già mi chiedo se voglio farlo. Di certo so che è giusto quel che fai. Probabilmente non potrò cambiarlo. Mi aspettavo diverso, forse il nostro domani. Ma tu scappi ed io mi perdo quando siamo lontani. Ora che tu fuggi via, sono perso qua giù. Nord e sud, sinistra e destra, se non più. Improvvisamente io mi sento perso qua giù. Non so se ti ritroverò perduto qua giù. Ogni passo che ho sempre fatto fino ad adesso è stato solo una questione di quando. Senza te puoi dirmi chi è l'uomo che tu stai allontanando, fuggendo. So che tu sei il mio nord ed io mi perdo qua giù. E il mattino è sera se tu non sei qua. Oh, sei il mio punto fermo, sono perso qua giù. Mi stai pensando chissà. Ma la via forse c'è. Sono perso qua giù.